Auguri Onda Rossa! Auguri Onda Rossa! Il 24 maggio del 1977 Radio Onda Rossa inizia a trasmettere. Il 24 maggio del 2017 festeggiamo Radio Onda Rossa, 40 anni nell'etere romano. Comunisti della capitale, è giunta al fine di della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. Dalle 17 in via dei Volci, microfoni aperti, aperitivo musicale con i DJ e le DJ di Onda Rossa. La guardia rossa suona la donata, tutti presenti. In più presentazione della ristampa del vinile degli Onda Rossa Posse. Con carcere il confine e col bastone, non hanno menomato al comunista. Onda Rossa Posse! La convinzione. Convinzione di una nuova era, al mondo porterà la redenzione, porta scritto sulla sua bandiera, rivoluzione. Mercoledì 24 maggio dalle ore 17, via dei Volci. Per info consulta il sito 40anni.ondarossa.it. Auguri Onda Rossa! Auguri Onda Rossa! Auguri Onda Rossa! Auguri Onda Rossa, dai! Fernando perché non è saltante, ma io lo voglio battere, sì, per farlo grande non posso, vedolo per aspettarti sacche. Chiedete! Dicono state calmi, ma tanto io li vedo, in armi che ci stanno cercando, guardano il cavallo, assassino al soldo. Maiali!